Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Dopo la morte del mio protettore, il capitano Fagan, devo confessare che imboccai una bruttissima strada in pessima compagnia. Essendo un rude soldato di ventura, Fagan non era mai stato il beniamino degli ufficiali del reggimento, i quali lo trattavano con quel disprezzo che gli inglesi a volte hanno per gli irlandesi, prendendo in giro il suo accento e le sue maniere brusche e sgraziate. Ero stato insolente con uno o due di loro e soltanto il suo intervento mi aveva risparmiato le punizioni, specialmente il suo successore, Mr. Ronson, non aveva la minima simpatia per me e assegnò a un altro la carica di sergente rimasta vacante nella sua compagnia dopo la battaglia di Minden. Quest'atto di ingiustizia mi rese il servizio militare ancora più sgradito. Invece di cercare di vincere l'antipatia dei superiori e guadagnarmi la loro stima con la buona condotta, pensavo solo al modo di rendermi la vita più facile e mi aggrappavo a tutte le distrazioni disponibili. In terra straniera, con il nemico di fronte a noi e la popolazione sottoposta di continuo a vessazioni e tributi, ora da una parte, ora dall'altra, alle truppe si concedeva un'infinità di irregolarità che non sarebbero state tollerate in tempi più pacifici. A poco mi abbassai a frequentare i sergenti e a condividere i loro svaghi, bere e giocare. Erano, mi dispiace dirlo, i nostri passatempi preferiti. E io mi gettai per quella strada con tanta foga che, nonostante fossi solo un ragazzo di 17 anni, quanto a gesti spericolati e scellerati, potevo dar lezioni a tutti loro. E sì, che in quel gruppo ce n'erano alcuni che, vi assicuro, erano ben avanti nello studio di ogni sorta di dissolutezza. Sarei certo caduto nelle mani del capo della polizia militare se fossi rimasto ancora a lungo in servizio. Ma accadde un incidente che mi allontanò dall'esercito inglese in modo piuttosto singolare. L'anno della morte di Giorgio II, il nostro reggimento ebbe l'onore di partecipare alla battaglia di Barburg, in cui il marchese di Granby e i suoi cavalleggeri riscattarono completamente il discredito che aveva pesato sulla cavalleria da quando Lord George Sackville s'era sottratto alla lotta a Minden. A Warburg, inoltre, il principe Ferdinando annientò ancora una volta i francesi. Durante l'azione, il mio tenente, Mr. Fakenham di Fakenham, quel signore che, come si ricorderà, mi aveva minacciato di fustigazione, si prese una palla di moschetto nel fianco. Aveva dimostrato di non mancare di coraggio, né in questa occasione, né in ogni altra in cui era stato mandato contro i francesi. Ma era la sua prima ferita e il giovane gentiluomo si prese un bello spavento. Offrì 5 guinee a chi l'avesse portato nel paese, che era molto vicino. Io e un altro lo allungammo nel suo mantello, riuscendo così a trasportarlo in una casa dall'aspetto decente e a metterlo a letto. Là, un giovane chirurgo, che non chiedeva di meglio che di sottrarsi al fuoco dei moschetti, lo raggiunse subito per curargli la ferita. Devo ammettere che per riuscire a entrare nella casa eravamo stati costretti a sparare sui chiavistelli. Il rumore richiamò alla porta uno degli abitanti della casa, una giovane donna molto carina, con gli occhi neri, abitava lì con il suo vecchio padre, mezzo cieco. Il nostro modo di bussare alla porta aveva saputo ottenere una pronta risposta. Dopo aver lasciato il dottore, tutto lieto di rimanere con il suo paziente e ricevuta da quest'ultimo la ricompensa pattuita, stavo tornando al reggimento con il mio commilitone, non senza aver rivolto nel mio tedesco approssimativo qualche meritato complimento a quella bellezza dagli occhi neri di Warburg, e pensavo con una certa invidia a quanto sarei stato comodo se mi avessero acquartierato là, quando il soldato che mi accompagnava interruppe le mie fantasticherie chiedendomi di dividere con lui le 5 guinee che mi aveva dato il tenente. «Ecco la tua parte», dissi, dando a quel tipo una moneta. «Somma più che sufficiente, visto che ero stato io a condurre la spedizione». Ma lui, con un'orribile bestemmia, urlò che dovevamo fare a metà. E quando gli dissi di andare in un posto che ora non nomino, alzò il moschetto e con il fondo del calcio mi tirò un colpo tale che rimasi a terra privo di sensi. Al risveglio mi accorsi che perdevo sangue da una larga ferita alla testa. Feci appena in tempo a trascinarmi fino alla casa dove avevo lasciato il tenente, prima di ricadere svenuto sulla soglia. Qui deve avermi scoperto il chirurgo mentre usciva, perché al mio secondo risveglio mi trovai nella stanza al piano terra, sorretto dalla ragazza con gli occhi neri, mentre il chirurgo mi faceva un copioso salasso al braccio. Nella stanza in cui era stato deposto il tenente c'era un secondo letto, il mio, in cui normalmente dormiva la serva Gretel, mentre Lischen, così si chiamava la mia bella, fino allora aveva dormito nel letto dove era disteso l'ufficiale ferito. «Chi state mettendo in quel letto?» disse lui in tedesco, in tono languido. La palla gli era stata estratta dal fianco con molto dolore e gran perdita di sangue. Gli spiegarono che si trattava del caporale che l'aveva portato lì. «Un caporale!» ribatté in inglese. «Buttatelo fuori!» Potete immaginare quanto mi sentii lusingato da queste parole. Ma eravamo tutte e due troppo deboli per indulgere a complimenti o insulti, e poco dopo mi prepararono per la notte con ogni cura. Spogliandomi, ebbi modo di scoprire che il soldato inglese, dopo avermi steso, mi aveva ripulito le tasche per benino. Ad ogni modo, ero in un buon alloggio. La signorina che mi ospitava mi portò subito una bevanda rinfrescante e, mentre la prendevo, non potei fare a meno di premere la mano gentile che me la porgeva, e non mi sembrò, a dire il vero, che questo segno della mia gratitudine le fosse sgradito. La nostra intimità non diminuì con il procedere dei rapporti. Trovai in Lischen la più tenera delle infermiere. Quando c'era qualche leccornia da portare al tenente ferito, ne veniva sempre mandata una parte al letto di fronte al suo, cosa che seccava non poco quello spilorcio. La sua malattia fu lunga. Il secondo giorno gli venne la febbre e per qualche notte fu in preda al delirio. Ricordo una volta che un ufficiale superiore era venuto a ispezionare i nostri quartieri, molto probabilmente con l'intenzione di farsi alloggiare là, quando d'un tratto gli giunsero dall'alto le urla e le parole insensate del malato. Batté in ritirata con un bello spavento. Io me ne stavo comodissimamente seduto nel mio letto al piano di sotto, perché la mia ferita ormai era guarita, e fu solo quando l'ufficiale mi chiese seccamente perché non ero con il mio reggimento che cominciai a realizzare quanto fosse piacevole per me quella sistemazione. Il delirio di Mr. Fakenham mi diede un'idea e decisi subito di diventare matto. Un tempo, in giro per Bradystown, si vedeva un povero diavolo chiamato Billy il Vagabondo e io, da ragazzo, imitavo spesso i suoi tiri da demente. Ora li misi in pratica di nuovo. Quella notte feci una prima prova con Lischen, accogliendola con un urlo e un ghigno che la fecero quasi impazzire di paura. Da allora, quando veniva qualcuno, deliravo sempre. Il colpo alla testa mi aveva scombussolato il cervello. Il dottore era pronto a giurarlo. Una notte gli bisbigliai che ero Giulio Cesare e che lui doveva essere la mia promessa sposa, la regina Cleopatra. Un movimento delle truppe francesi provocò un'immediata avanzata da parte nostra. La città venne evacuata, tranne per poche truppe prussiane. I loro chirurghi avevano ordine di continuare ad assistere i malati in loco, ma una volta guariti saremmo stati rispediti ai nostri reggimenti. Decisi che non mi sarei mai più riunito al mio. Il mio piano era di puntare sull'Olanda, a quell'epoca praticamente l'unico paese neutrale d'Europa, e da lì trovare in qualche modo un passaggio per l'Inghilterra e tornare a casa, alla cara vecchia Bradystown. Se Mr. Fakenham è ancora vivo oggi, gli rivolgo le mie scuse per come mi comportai con lui. Era un uomo molto ricco e mi trattava molto male. Ero riuscito a far scappare via per la paura il suo servitore, venuto ad assisterlo dopo che era rimasto ferito a Warburg. In seguito accettai a volte di prendermi cura del malato, che mi trattò sempre con disprezzo. Ma il mio scopo era di trovarmi solo con lui, e sopportavo la sua villania con la massima cortesia e dolcezza, architettando intanto fra me e me un bellissimo espediente per ricambiare tutti i suoi favori. E non ero l'unica persona in casa con cui quel degnissimo gentiluomo si mostrasse scortese. Dava ordini alla bella Lischen a destra e a manca, le faceva una corte importuna, diceva male delle sue zuppe, diceva peste e corna delle sue frittate e le lesinava il denaro destinato al suo stesso mantenimento, cosicché la nostra padrona di casa lo detestava tanto quanto, credo di poterlo dire senza vanità, aveva simpatia per me. E infatti io, per dire tutta la verità, da quando mi ero stabilito sotto il suo tetto, la corteggiavo con passione. Faccio sempre così con le donne, senza badare alla loro età e bellezza. Per un uomo che deve farsi strada nel mondo, queste care ragazze possono sempre riuscire utili in un modo o nell'altro. E che importa se vi rifiutano? In ogni caso, la vostra dichiarazione non le offende e vi considerano solo con occhi più benigni per via della vostra sfortuna. Ma quanto a Lischen, le raccontai la storia della mia vita in una versione così patetica. Era una storia certamente molto più romantica di quella qui narrata, perché non mi limitai alla pura verità, come devo invece fare in queste pagine, che conquistai per intero il cuore della povera ragazza. E in più, sotto la sua guida, feci notevoli progressi nella lingua tedesca. Non mi considerate crudele o senza cuore, signore che leggete. Il cuore di questa Lischen, come molte città della regione in cui lei viveva, era stato preso d'assalto e occupato molte volte prima che venissi io a invaderlo. Aveva battuto ora la bandiera francese, ora quella verde-gialla della Sassonia, ora quella bianco-nera della Prussia, a seconda dei casi. Nel corso della mia permanenza là, soltanto un paio di volte il chirurgo tedesco che ci curava dopo la partenza degli inglesi fu tanto gentile da venire a farci visita. Ebbi cura, per certe ragioni mie, di riceverlo in una stanza quasi buia. Questo infastidì molto Mr. Fakenham, che occupava la stanza, ma io dissi che da quando ero stato colpito al capo, la luce mi dava un gran dolore agli occhi, e quando venne il dottore, mi coprì la testa con dei panni. A lui dissi di essere una mummia egizia o qualche altra sciocchezza del genere, inventata per recitare bene la mia parte di matto. La seconda volta che aspettavo una visita del dottore, invece di riceverlo al buio e con la testa avvolta nei fazzoletti, feci attenzione a farmi trovare al piano di sotto. Stavo giocando a carte con Lischen proprio nel momento in cui lui entrò in casa. Mi ero impadronito di una giacca del tenente e di altri articoli del suo guardaroba che mi andavano a pennello e, se posso vantarmi, ora si vedeva che non ero altri che un gentiluomo. «Buongiorno, caporale», disse il dottore, piuttosto burbero, in risposta al mio allegro saluto. «Caporale?» «Tenente, prego», replicai, con un'occhiata d'intesa a Lischen, che non avevo ancora messo a parte dell'intrigo. «Come sarebbe a dire, tenente?» domandò il chirurgo. «Credevo che il tenente fosse...» «Parola mia, mi fate un bell'onore!» esclamai ridendo. «Mi prendete per il caporale matto del piano di sopra? Ah, quel bel tipo ha preteso una volta o due di essere un ufficiale, ma la mia gentil padrona di casa può garantire la mia identità». Ieri si credeva il principe Ferdinando, disse Lischen, e il giorno che siete venuto voi diceva di essere una mummia egizia. Faceva proprio così, disse il dottore. Me ne ricordo, ma... Sapete, tenente, vi ho confusi nelle mie note. Non gli parlate della sua malattia. Ora è calmo. Lischen e io ridemmo di questo errore, come della cosa più buffa del mondo, e quando il chirurgo salì a esaminare il suo paziente, gli raccomandai ancora di non parlargli del suo male, perché era in uno stato molto eccitabile. Il lettore avrà capito da questa conversazione quale fosse in realtà il mio obiettivo. Ero deciso a fuggire e a farlo assumendo l'identità del tenente Fakenham, strappandogliela proprio sotto il naso e usandola per far fronte alle mie imperiose necessità. Si trattava di simulazione, di frode e anche di furto, se volete, perché mi presi tutto il suo denaro e i suoi vestiti. Non mi importa di nasconderlo, ma il mio bisogno era così urgente che lo rifarei. E sapevo di non poter scappare senza portare con me, oltre al suo nome, la sua borsa. Il tenente rimaneva ancora a letto al piano di sopra, e io indossai la sua uniforme senza la minima esitazione, anche perché avevo già chiesto al dottore se ci fosse in paese qualcun altro dei nostri uomini che avrebbe potuto riconoscermi. Ma a quel che mi fu detto, non ce n'era nemmeno uno. Così me ne andai tranquillamente a passeggio con Madame Lischen, vestendo l'uniforme del tenente. Feci qualche ricerca per trovare un cavallo da comprare. Andai a presentarmi al comandante della piazza come tenente Fakenham del reggimento di fanteria inglese Gales Convalescente, e mi invitarono a pranzare con gli ufficiali del reggimento prussiano in una loro misera mensa. Ah, come si sarebbe infuribondito Fakenham se avesse saputo che uso facevo del suo nome. Ogni volta che quel degno signore mi chiedeva dove fossero i suoi vestiti, imprecando senza sosta e giurando che una volta tornati al reggimento mi avrebbe fatto fustigare per la mia disattenzione, io lo informavo con aria più che rispettosa che erano stati riposti ben al sicuro di sotto. E in effetti così era. Li avevo impacchettati con ogni cura, pronti per il giorno in cui mi proponevo di partire. I suoi documenti e il denaro, però, li teneva sotto il cuscino. E ora che avevo comprato un cavallo, diventava necessario pagarlo. Perciò, a un dato momento, ordinai di portarmi l'animale e dissi al venditore che l'avrei pagato. Risolto alla grande azione che stavo per compiere, salì al piano di sopra ed entrai nella stanza di Fakenham indossando al completo la sua uniforme da reggimento con il suo cappello calcato sull'occhio sinistro. «Gvan favabutto!» disse lui con una marea di bestemmie. «Cane ribelle! Perché diavolo ti sei messo la mia uniforme da reggimento? Come vevo che mi chiamo Fakenham, quando torniamo al reggimento ti farò staccare l'anima dal corpo!» «Sono stato promosso tenente», dissi con un sogghigno, «e sono venuto a prendere congedo da voi», e avvicinandomi al letto aggiunsi: «sono deciso ad avere le vostre carte e la borsa». E detto questo infilai la mano sotto il cuscino, ma lui diede un grido che mi sembrò dover richiamare lì tutta intera la guarnigione. «Datemi retta, signore», dissi, «non un rumore, o siete un uomo morto», e preso il fazzoletto glielo legai stretto sulla bocca, quasi da soffocarlo. Poi tirai verso di me le maniche della sua camicia e le annodai l'una all'altra. Lo lasciai così, naturalmente, dopo aver preso i documenti e la borsa, e con un cortese augurio di buona giornata. «È il caporale matto», dissi alla gente che si era radunata di sotto, attratta dai rumori provenienti dalla camera del malato. E con un saluto al vecchio e un addio, non dirò quanto tenero a sua figlia, montai in sella al mio animale appena acquistato. Mentre cavalcavo via, con qualche impennata baldanzosa e le sentinelle alle porte della città mi presentavano le armi, sentii che mi trovavo di nuovo nella sfera che mi si addiceva e decisi fermamente di non decadere mai più dal mio rango